che è tutto sotto l'ombrello di questa, o di questa, che cos'è, un evento, un, no, che cos'è, un, comunque si chiama riparazione, e ne abbiamo parlato l'anno scorso con Cristina Francucci, la direttrice. E come lo chiamiamo riparazioni, Daniele? Un progettone. Eh sì, perché l'anno scorso c'erano stati degli eventi che erano dei workshop in realtà con la partecipazione pubblica. Mi ricordo, sì, c'era Sissi che costruiva pasta con... Impastava in piazza. Sì, esatto. Piazza Ravaglione, sì. Si impastava della pasta, cioè si costruivano delle piccole sculture di farina in realtà, sì, che poi si cuocevano e mangiavano. Ma invece quest'anno comincia adesso, giusto? Lunedì prossimo, l'inizio di tutto il progettone, sì, di quest'anno, che si articolerà poi in tante azioni diverse rispetto all'anno scorso, che erano soltanto laboratori appunto in piazza, la piazzetta davanti l'Accademia. Quest'anno ci sono tante azioni, sono moltiplicate per quello, sì, progettone. Sì, sono centuplicate, esatto, infatti, perché progetto. Poi c'è anche il progetto Portici, è sempre parte di... Portici in realtà è un po' un satellite, dentro riparazioni c'è una collaborazione con Radio Città Fujiko per l'avvio di un nuovo programma. Che siamo noi. Che siete voi, esatto. Ok. C'è appunto il ciclo di incontri, ritorneranno alcuni laboratori sempre in piazza, e ci sarà anche un intervento installativo nella piazza, e in più anche dei progetti che hanno coinvolto il corso di fumetto con una pubblicazione, e il corso di linguaggi del cinema e dell'audiovisivo con il prof Finotto con la produzione di un video, quindi sì, diciamo un sacco di roba, tanta roba, sì. Tutto aperto al pubblico, naturalmente, tutto aperto al pubblico, sì, laboratori rivolti proprio a abitanti del quartiere, cittadini, famiglie, anche bambini, perché sono laboratori rivolti anche a un pubblico più giovane. Gli incontri di cui poi penso Lucrezia vi racconterà meglio, tutti ovviamente aperti al pubblico. Sì, quindi sono tutte iniziative che legano l'Accademia, che aprono l'Accademia sulla città. Certo, chissà se il nostro Marco Roma abita dalle vostre parti, perché voi dovete sapere che qui a Radio Città Fujiko c'è un ascoltatore che tutti i giorni manda un vocale cantato alla nostra radio, e naturalmente Coxo Spaziale è la trasmissione che ce li deve far sentire, per cui andiamo a sentire cosa ci canta oggi il nostro fantastico Marco Roma. Buongiorno! Se a volte ti parli di te, ti descrivi come un quadro, ma forse non sei il Picasso o la Gioconda, ma io sono Marco Roma. Buongiorno! Questo ce l'ha fatto appositamente per noi, mi sembra. Grande Marco Roma. Naturalmente, se volete mandare dei vocali cantati, lo potete fare anche voi su WhatsApp al 333 180 94 94. Potete anche mandare messaggi normali, non è che siate obbligati, o potete chiedere, fare domande ai nostri ospiti, perché i nostri ospiti, oltre a Lucrezia e Daniele, abbiamo Federico e Jacopo, che sono, io vi avevo invitato poco dopo Art City, perché voi avevate organizzato Hard City, ovvero che mi sembrava una cosa geniale. Raccontateci un po' cosa avevate fatto, dopo poi vi interrompo e mettiamo un pezzo. Ma niente, noi dal nostro magazzino di idee, un paio di settimane prima della grande manifestazione che tutti conosciamo, che Art City, abbiamo detto: ma ci starebbe questa volta, invece di cercare dello spazio per fare qualcosa, cercare dello spazio per far fare qualcosa a più gente possibile, e creare un evento collaterale di quella che è questa bellissima manifestazione che a noi piace tantissimo. E quindi abbiamo strutturato questo evento in maniera così un po' underground all'interno di una macchinetta 24 ore, un distributore di bibite, chiedendo al proprietario di svuotarcela e facendo installare un sacco di artisti della nostra città, artisti emergenti, delle micro opere che potevano essere acquistate al sì, prezzo emergenti e non solo è vero, perché c'erano anche degli sì, artisti, c'erano delle superstar. Niente, la cosa bellissima era il prezzo delle opere, certo, perché rispondeva al prezzo degli snack, esatto. Non era stato cambiato, infatti. E dopo sì, lì si apriva anche un'idea di discorso di mercato che è stata una conseguenza un po' inevitabile, perché non c'è stato consentito di andare a modificare il prezzo, certo. Se una macchinetta digitale comunque sarebbe stato un procedimento complicato, e un po' abbiamo anche accolto questa cosa qui per... Sì, era puramente funzionale al contesto che volevamo creare, ecco. No, funzionava bene, almeno io ero contento di comprare delle opere d'arte a un euro. Fantastico, dopo poi ne parleremo ancora, intanto ascoltiamo un pezzo. Non sottovalutare mai il ritorno verso casa, ciò che chiami tale, ma è una gioia tranne la fermata prima di centrale. Sto cercando un posto tutto mio, è solamente ciò che voglio. Oggi tutto bene sì, ma domani comio. Mi vedi sono qui davanti, ma con la testa a mille miglia. Come dire li chiamano fichi d'India, ma ce n'è di più in Sicilia. Non mi ricordo cosa ho fatto ieri, ma so capire i sentimenti veri. Sono quelli che lavorano di notte come i panettieri, panettieri. Quanta paura di essere diversi, ma quanta noia di essere perfetti. I ponti sono fatti per buttarsi, mica per metterci lucchetti. Forse troppa fantasia, io ho dei problemi di allegria, sì. Solo la mia batteria che fa pum pum cia. Come? Pum pum cia. È in pratica. Tutti vestiti di nero con la faccia pallida. Sembriamo la Juventus e tu per fare il derby ci hai tirato una granata nei denti. Sì, ma tanto non ci prendi. Ma cosa è il nome della mia famiglia? Continuo a correre con chi famiglia. So da dove vengo, non so dove vado. Mio nonno è tropicale, quindi ho un avocado. Continuo la scalata fino all'Everest. Alice guarda i gatti perché Kanye West. Lavoro sodo, tiro sulle maniche, perché voglio che ci tiri sulle mani te. Forse è troppa fantasia. Io dei problemi di allegria, sì. Solo la mia batteria che fa pum pum cia. Come? Pum pum cia. La memoria in avaria. Io preso tre in economia, sì. Solo la mia batteria che fa pum pum cia. Come? Pum pum cia. Non sottovalutare mai il ritorno verso casa, ciò che chiami tale, ma è una gioia tranne la fermata prima di centrale. Eccoci ritornati in studio. E stavamo parlando di The Sims, giusto? Questo gioco in cui io non l'ho mai scaricato, per cui non so, tu Lucrezia ci hai giocato? No, non frequento, però insomma, no. Si costruiscono case, città, vie, attività, una Second Life che oggi forse tornerà di moda col metaverso, perché no? Ma infatti Second Life poi che fine ha fatto? Perché no, si è arenata, c'è stato in un attimo che ce l'avevano tutti, e anzi tutte le gallerie dovevano avere la galleria su Second Life. Voi forse non siete così giovani che non sapete mai di cosa stiamo parlando. Lì avevi il tuo avatar che vive una vita parallela in questa città. Ma qua, cos'era? 10 anni fa? Di più? Forse no, sì, di più. Inizio dei 2000. Sarà stato 2005-2006. Solo che adesso con il metaverso questa cosa ritornerà, dove però tu non hai più un avatar che ha una vita diversa dalla tua, ma sei tu in formato avatar che spendi, no, e vivi online. Dici? In teoria dovrebbe essere questa una delle vie che prenderanno i social, diciamo, immersivi. Però vedremo. E filosoficamente cosa ne pensi di questo? Ho provato anche a scriverne qualcosa, perché la cosa è più interessante, no? Cioè, ormai la vita non è più splittata, la vita reale e la vita virtuale. Ormai c'è una terza forma in cui il virtuale fa parte del tuo quotidiano. Poi certo, se diventerà normale avere gli occhiali della realtà virtuale e fare esperienze sensibili online, la cosa sarà molto interessante. Ma siamo anche inquietante. Cioè, io in realtà c'è di così virtuale nella nostra vita? A parte il fatto di comunicare in tempo reale con chiunque, però voglio dire, il telefono 50 anni fa non è che fosse tanto diverso, dai. Beh, era molto diverso, perché adesso telefono è il web, internet, hai una tua personalità, una tua identità, un tuo mondo che esiste in questa casa portatile che è il cellulare, che non serve più per chiamare, serve per farci un selfie e metterlo online e tutti sanno che siamo qui. Esatto, insieme. Metterlo sulla pagina di Cox Spaziale, così la gente seguiteci anche su Instagram, su Radio Città Fujiko, sperando che lo streaming funziona, perché ogni tanto salta lo streaming e allora i miei amici lontani non ci ascoltano. No, perché naturalmente io quando eravamo non in diretta, ho saputo che tu organizzi un festival di filosofia nelle Marche, che si chiama? Si chiama Pop Sofia. Pop appunto Sofia. Ci occupiamo anche di questo, cioè di filosofia applicata, diciamo, al cinema, al fumetto, alle serie TV, però anche a tutti i nuovi fenomeni che in qualche modo cambiano la nostra vita grazie appunto al digitale, nel bene e nel male, diciamo, cercando di avere un atteggiamento appunto filosofico, cioè di analisi senza così criticare a priori, senza troppo giudizio. Esatto. No, io sono ignorantissimo di filosofia, ma super appassionato, per cui che ne so, tipo seguo strenuamente su TikTok Benedetta Santini con Filosofia e Caffeina, che fa un ottimo lavoro di, come si dice, un bignami vocale di, sì, di no, quello i che i progetti di divulgazione sono interessantissimi, ma anche proprio di produzione, no? Di contenuti nuovi sul web, che creano anche domande nuove, non solo spiegano il manuale in 10 secondi, che forse è la cosa un po' più problematica, invece appunto creano connessioni diverse, che forse anche appunto con l'arte è la cosa più interessante da fare, no? Mettere insieme competenze. Anche in questo progetto per l'Accademia abbiamo cercato proprio di fare questo, cioè mettiamo insieme mondi diversi, professionalità diverse, no? Profili diversi, chi si occupa di filosofia, chi si occupa di fumetto, chi si occupa di curatela e così via, intorno ad un tema comune, per vedere cosa ne viene fuori, insomma, riflettendoci insieme. Il ciclo di incontri comincia lunedì prossimo, 3 aprile, e sono dialoghi d'arte, cultura e società, un ciclo di 6 incontri a cura tua, di Lucrezia Ercoli, Maura Pozzati, che abbiamo avuto qui in studio svariate volte, ed Emilio Varrà, che invece mi manca, per cui dovrà venire anche lui a Cox Spaziale prima o poi. Ce lo porteremo, perché noi iniziamo lunedì ma finiamo a fine giugno, infatti, quindi ne abbiamo di tempo. Un sacco di tempo. Lunedì cominciamo con il filosofo Emanuele Coccia. Cosa ci racconti? Sì, allora, di lui? Si inserisce tutto, no, in questo progetto, come dicevamo prima, si chiama Riparazione, è legato a questo progetto europeo, no, il PON Metro, coordinato dalla città di Bologna e finanziato dall'Unione Europea. L'Accademia ha creato queste tante iniziative su questa, intorno a questa parola riparazione, cioè la possibilità che l'arte e l'attività artistica ha di riparare, nel senso di proprio ricucire, no? Ferite aperte, ferite sociali, ferite culturali, ferite esistenziali. E iniziamo con Emanuele Coccia, appunto, lunedì, che è un filosofo di origine italiana ma lavora da sempre a Parigi, e forse è uno dei nomi più importanti della filosofia contemporanea, anche più creativi. Il suo ultimo libro si intitola Metamorfosi, e proprio ci piaceva iniziare da qui, cioè da quest'idea del cambiamento come la radice ultima della vita, e quindi anche la radice ultima dell'esperienza artistica, per rimettere insieme appunto universi separati. Coccia parte da un approccio proprio non antropocentrico, no? Non pensare la nostra vita solo dal punto di vista umano, ma riconnettere la vita umana, la vita animale, la vita vegetale, ripensando una radice, ecco, comune della vita, e quindi, ecco, ricucire da questo punto di vista il nostro modo di pensare il mondo, un po' dicotomico, no? Noi e gli altri. E lui, insomma, verrà a Bologna per fare la sua lectio. L'idea è coinvolgere gli studenti, ovviamente, per far capire, insomma, per far conoscere anche professionalità così di alto profilo, ma anche coinvolgere la cittadinanza, far venire quanta più gente possibile, per, insomma, rendere l'Accademia un polo culturale che chiama artisti, intellettuali, filosofi non solo da tutta Italia, ma da tutta Europa e da tutto il mondo, perché gli artisti verranno veramente da dovunque in questa rassegna. Eh sì, ho visto che arrivano i Ruang Gupa, che sono stati il gruppo di indonesiani curatori di Documenta l'anno scorso. Siamo infatti molto, un incontro molto atteso. Infatti, la cosa bella è che loro hanno chiesto di arrivare alcuni giorni prima dell'incontro, proprio per questo loro approccio che hanno avuto anche con Documenta, cioè vogliono conoscere gli studenti, conoscere le istituzioni, conoscere la città, il territorio, entrare in dialogo, in relazione, anche qui, no, l'attività della riparazione in questo senso, non venire e proporre la loro idea, ma costruire in una sorta di laboratorio nei giorni precedenti un progetto unico, per poi rendere, ecco, l'evento l'ultimo atto della loro presenza bolognese. Quindi, penultimo, insomma, perché tenteremo di trascinarli anche qui dentro a Coxo Spaziale. Insomma, ci proviamo, anche se in effetti senza Mia, cioè sarà fondamentale avere Mia che mi aiuta con la traduzione. Bene, vi interrompo perché c'è una piccola rubrica così che disturba prima della pubblicità delle 20:30. Fuori porta. Oh, era un sacco che non sentivamo la rubrica Fuori Porta, e stasera siamo qui perché la fantastica Francesca Grispello di Simpress 44 ci ha spedito un comunicato stampa su un nuovo libro che si intitola Ostinato ad Libitum, ed è il nuovo libro di Andrea Cacciavillani per Big Box Edizioni. Scrive Francesca: Walter, musicista talentuoso ma privo di obiettivi ed eternamente in fuga da se stesso, si improvvisa investigatore per aiutare un amico accusato di omicidio a Casablanca. Un viaggio interiore che lo cambierà irreversibilmente come uomo e come musicista. Il romanzo, una nuova avventura per l'apprezzato e attivo autore molisano che fa dell'eterna ricerca di se stessi, oltre le paure, una partitura musicale. Tra ironia, spezie esotiche e la polvere africana, un viaggio nell'anima, nella musica interiore e nel talento che a volte può salvare la vita. Il libro si intitola appunto Ostinato ad Libitum, e siamo andati a chiedere ad Andrea tre cose, ovvero come nasce questo libro, a chi lo consigli e come nasce la tua collaborazione con Big Box Edizioni. Sentiamolo. Allora, l'idea del romanzo è un'idea un po', come dire, fatta di diversi elementi che si sono mischiati nel tempo. in un tempo anche abbastanza lungo. Allora, la scrittura materiale della storia, una volta che il personaggio ha iniziato a prendere la sua vita, quindi a raccontare in prima persona quello che è stata questa sua storia, è durato circa un anno con qualche pausa, ma in realtà tutti gli elementi che hanno permesso poi a Walter Carboni, che è il protagonista del romanzo, di diventare appunto Walter Carboni, si sono mischiate nel tempo. Intanto io avevo l'idea di creare questo personaggio musicista che avesse a che fare con la musica in maniera molto molto intima, quindi, come dire, che avesse questo rapporto quasi vitale con la musica, mi interessava molto. E poi lo strumento, io appunto non sono musicista, ma la collaborazione con tanti musicisti nel tempo mi ha permesso di ascoltare gli strumenti, che sono affascinanti, ma tra questi il clarinetto mi ha sempre affascinato molto, e quindi l'ho fatto diventare un clarinettista. Poi la scelta della città, che è stata un po' casuale, io sono fatto un viaggio a Casablanca per un progetto di lavoro, e questa città mi è sembrata la location è giusta per la storia che voleva raccontare Walter Carboni, e nella sua ricerca della sua identità, delle sue fragilità, delle sue paure, perché poi è una storia, come del resto tutti i personaggi che si leggono nei romanzi e nelle storie, sono personaggi che hanno un'empatia con noi proprio perché ci rappresentano nelle nostre fragilità, nella ricerca di noi stessi, nel cercare di raggiungere degli obiettivi. E Casablanca non che mi avesse affascinato come bellezza, perché in Marocco esistono città che sono sicuramente più interessanti, ma insomma questi profumi, questi colori del Marocco, questa cultura che hanno, mi è sembrato di dare la dimensione giusta alla storia che Walter Carboni vive e che voleva raccontare. E poi vabbè, anche l'incontro con tanti artisti, musicisti, registi, attori, insomma tutto questo che sono stati elementi che hanno permesso al romanzo di venire fuori Walter Carboni, questo personaggio con l'orecchio assoluto, questo musicista conflittuale, ironico, e quindi questa storia nella quale si trova coinvolto e che lui racconta. Per quanto riguarda invece il chi consigliare il libro, intanto dico questo, quello che direi per qualunque altro romanzo, e cioè che consigliate a chiunque non abbia nessun buon motivo per non leggerlo. Questa è sicuramente la risposta che mi verrebbe da dare. Non parlo dell'età della lettura, è un romanzo adatto a tutti, quindi non c'è un limite di età. Lo consiglio a chiunque non abbia un buon motivo per non leggerlo, per non immergersi in una storia diversa da quelle che magari ognuno di noi vive, oppure magari simile, ecco, ci possono trovare delle similitudini, ma in realtà, insomma, leggere delle storie fa sempre bene. Eccoci tornati in diretta con Yard City, ovvero Federico Garilli e Jacopo Casamenti, che mi dicono che avete curato un evento, cioè curerete un evento anche questo giovedì. Sì. Sì. Raccontatemi tutto. Secondo episodio di questa serie di eventi che è intitolata Gleba 2000. E che si pone l'obiettivo di raccogliere artisti emergenti quasi ancora sconosciuti alla città di Bologna e portarli a far conoscere al pubblico, agli interessati nel mondo dell'arte di Bologna, sia dell'arte visiva che della musica. Sì, è un'ibridazione, c'è un'ibridazione in cui sono presenti degli artisti visivi che interagiscono con chi cura l'aspetto musicale E diciamo l'intenzione è quella di creare un... A proposito di aspetto musicale, io pensavo che il pezzo fosse così, invece è il CD che salta ed è andato in loop così. Per cui mettiamo la canzone dopo. Ma va bene. Comunque. Non era male. Che Salvetto Tordi alla Biennale dei Dati. Esatto. È un tipo di cosa che si potrebbe trovare a Gleba 2000. E comunque, sì, cioè, no, puntiamo... Infatti, io, se non potessi essere vostro padre a livello così di età, verrei a caffeggiare anch'io. E quindi sì, l'ibridazione di arti visive e arti musicali va di pari passo anche con questa cosa della sperimentazione, e a noi interessa molto anche l'aspetto di emersione, quindi diciamo sottolineare alcune figure che ancora non sono inserite nei contesti professionali, quindi per esempio ospiti di questo secondo evento qui saranno a livello installativo, cioè a livello visivo saranno due artisti che lavorano con la scultura e l'installazione che abitano a Torino e sono una coppia. Lui è francese, giusto? Sì, francese di Nizza. E lei invece di palermitana, però lavorano tutti e due a Torino. Ho capito. Sì, cioè, è molto interessante questo per noi, visto che noi facciamo tanta attività di scouting nel mondo dell'arte, cerchiamo tanto, soprattutto nuove leve, nuove tendenze. Abbiamo detto, ma cioè io continuo a parlare ai miei amici qua a Bologna, ai miei amici artisti, di tanta gente che ho visto così, ma vorrei portargli il lavoro fisico. Quindi abbiamo detto, creiamo questa situazione in cui, cioè, ci sono le circostanze per portare dal vivo questi artisti. Fantastico. E lo spazio che cos'è? Il Circolo Dev ospita quasi sempre eventi organizzati da vari enti, vari collettivi di Bologna. E noi ci siamo appoggiati al Circolo Dev perché oltre ad essere uno spazio connotato da questo punto di vista, quindi che a cui le persone fanno riferimento quando cercano eventi e iniziative legate all'arte e alla musica, a due livelli, e quindi c'è la possibilità di creare un allestimento come se fosse una mostra nel piano sotterraneo e il piano superiore che ospita invece il palco, la zona bar e l'ascolto, che quindi insomma c'è questa combinazione che funziona. Ottimo. Non ci sono mai stato, devo venire a controllare. Ma vieni. No, infatti giovedì vengo, assolutamente. Bene, allora, dunque, fra l'altro appunto stiamo già, è come aver già cominciato la rubrica, ovvero l'angolo della menzione, per cui mettiamo la sigla. L'angolo della menzione. Perché giovedì... alle ore 16, giovedì 30 marzo, Car Gallery è lieta di annunciare Il sogno della camera nera, la prima personale dell'artista cinese Bu Xi, che presenta un corpus di opere inedite appositamente realizzate per la mostra. Questa è a Car Drdr in Piazza Gardino 14, naturalmente a Bologna. Poi abbiamo alle 19.30, sempre giovedì 30 marzo, abbiamo Xing che presenta a Raum il nuovo libro di Luca Trevisani, Walking Loaves, pubblicato da Nero con un display set di materiali processuali, centinaia di fogli scritti a mano e di alcune sculture metamorfiche da indossare, ovvero delle scarpe con suole di pane innestate su tomaie preesistenti che avevamo già visto anche ad Arte Fiera. Questa è a Raum in via Caselvatica 4 a Bologna. Il vostro evento invece a che ora comincia? Dalle ore 20 fino alle ore 23:30 circa. Ah, finite presto. Per essere questo è la fine ufficiale, poi magari poi chissà, moriamo. Sì, questo dice la locandina. E si intitola Gleba 2000. Gleba 2000. Secondo episodio, fantastico. Naturalmente su coxospaziale.blogspot.com da domani troverete il link per il Circolo Dev nel caso non sappiate dove sia, come me, che è in via, hai detto? Capo di Lucca. In via Capo di Lucca. Dopodiché venerdì 31 marzo alle ore 19 Non ho mai lasciato fiori tra le pagine di un libro prima di conoscerti. Il progetto di Flavio Pacino è un archivio consultabile in forma di installazione site specific. L'archivio è composto da scritti e disegni, oggetti fetiche ed elementi naturali disposti sull'evocativa struttura in legno che accoglie lo sguardo degli avventori nella Project Room di Marsala 2. E questo appunto è a Marsala 2, in via Marsala 2, dove altro poteva essere. Sabato invece inaugura alle 18.30 a Piacenza con la mostra Emergere, collettiva decentralizzata di A Priori Magazine, una mostra distribuita sul territorio italiano che coinvolge 5 spazi no profit. A Piacenza, a Bologna, ospiterà le artiste Livia Ribichini e Giorgia Herrera a cura di Linda Carluccio. Questa è da Piacenza in vicolo Spirito Santo numero 1. Dopodiché lunedì 3 aprile alle ore 17 invece naturalmente dobbiamo andare ad ascoltare Emanuele Coccia all'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti con questi incontri a cura di Lucrezia. Vuoi dire qualcos'altro su Emanuele Coccia o sugli incontri o su quello che succederà lunedì? Ma allora lunedì appunto parte questo ciclo che inizia alle 17, poi ci saranno incontri come dicevamo prima fino a giugno. Coccia è l'unico filosofo, quindi gli abbiamo chiesto di dare un po' così un segno di inaugurazione, mm-hmm, cercando di descrivere, di provare a concettualizzare la filosofia di riparazioni. E poi il progetto continuerà con Irwan Grupa, continuerà con Punzo, che è il creatore della Compagnia della Fortezza, quest'anno addirittura vince il premio biennale teatro, quindi insomma è stato un invito prima di questo premio, quindi siamo contenti di festeggiarlo proprio a Bologna. Ci sarà Delita Unsibei, un'artista italo-libica che vive a New York, che si occupa di pedagogia anarchica, quindi anche lì sarà molto interessante per la scuola di didattica dell'arte sì, così entrare anche in contatto. Lei mi incuriosisce molto perché avevo visto i suoi lavori alla Biennale di Venezia, quando è stato? Qualche anno fa, non la scorsa ma due o tre biennali fa. Sì, esatto, aveva presentato il lavoro alla Biennale, l'ha presentato anche a Roma mi sembra l'anno scorso. Lei anche lì lavora molto attraverso la relazione con un gruppo di studenti, bambini, atleti, no? Uno dei suoi ultimi progetti con gli atleti è stato proprio sulla, come dire, l'ossessione della performance, no? Tutti gli atleti che si erano infortunati, che riflettevano su questa ossessione di spingersi ai limiti. Quindi ecco, un'arte che cerca di analizzare anche le storture, no? della società. Poi ci sarà il fumetto con Nora Krug, che è un'illustratrice e autrice. Probabilmente lo speriamo, ci sarà anche la regista Alice Rothwacker, che dovrebbe raggiungerci se non entra a Cannes. Quest'anno è stata candidata agli Oscar con il cortometraggio Pupille, cioè, la state gufando, cioè, esatto. se non partecipa a Cannes siamo indecisi no, anche perché comunque se sostenerla o meno il suo nome nel comunicato stampa c'è, per cui insomma è che nel mentre okay. È stata nominata agli Oscar con il cortometraggio Pupille, che non ha vinto o adesso mai più, quindi ha avuto una visibilità pazzesca. Tra l'altro è bellissimo il cortometraggio che ha fatto con Cuaron. E dunque questi incontri tirano dritto fino al 23 giugno, insomma ce ne sarà da fare fino all'open tour. Sì, fino all'open tour, due mesi di attività, tre mesi anzi. Ok, e l'open tour sarà appunto da quella settimana lì, dal 23 giugno se non sbaglio. Infatti sì, Nora Krug chiude il ciclo e e apre l'open tour. Appear to Nanja when you reach into the dance. You don't know it says some boy, you better beware. Cause we're coming off dynamite out of the rhythm box. Give me no star. Yes, we are Nanja with Nanja. Nanja with Nanja. Maybe some boy better take a step back. When we string up this sun in a yard. Run to your mommy when me take the mic lock. We put it in the mix and rock up this back. Me telling us danger, danger. Wanna know I said my sound a danger. Rip it, flash it, come to the way. Danger, danger. Wanna know I said my sound a danger. Ooh, yes, we are danger, we danger. Danger, we danger. Danger, danger, be danger. For the noise is down, me a danger. Me tell it up, me tell it up. I walk one year so down in this here town. Me see the young people, them a run up and down. From venue to venue like a party club. But when they discover my place, them can't leave my sound. You see we make them skunk, I make them move them body. When we rip it up, now I got puffin' styly. They get them broke down, can we make them feel like we. Yo, this is how we meet in a Berlin city. Make them look danger, danger. Wanna know I say my sound a danger. Rip it up, flash it, come follow it. Danger, danger. Wanna know I say my sound a danger. Oh, yes, we are danger, we danger. Danger, we danger. Danger, we danger. On the North Sister, we are danger. From them I be getting mad, getting mad. So I better leave and better drop on the back. Kind of say my son a danger for the attack. You know me something and me a chat. You know see me the big sound boy rally back. Watch you know the cemetery will be a new spot. Whether you from over here, so whether you from abroad. Give me some boy better take a step back. When we string up this son in a yard. Run to your mommy when me take the mic block. If we put it in the mix and rock up this block. Me tell no danger, danger. Wanna know I say my sound a danger. Rip it, flash it, come follow me. Danger, danger. Wanna know I say my sound a danger. Ooh, yes we are danger, we danger. Danger, we danger. Danger, we danger. Wanna know what's the star, we are danger. È finito il pezzo, non me ne ero accorto, sai, succede anche questo. Ah cavoli, poi mi ripromesso di cambiare la musica di sottofondo perché continua a saltare, ma non ho fatto nemmeno questo e dunque andiamo pure avanti così alla spartana. Alla spartana, che bravo, devo dire che avrei usato un termine più peggiorativo. No, stavamo mentre ascoltavamo questo fantastico pezzo che ci ha spedito il la Boom Rush Promotions, che ci manda tutti questi pezzi reggae sempre, e lui era Long Figan and Sub Pressure Band con Danger Danger. E comunque, e appunto stavamo parlando della grafica di Hard City, no? Che era stata fatta da chi? Da un nostro collaboratore. Sì, è stata realizzata, si può dire, nome da Giovanni Russo, che okay, è un nostro amico e collega. Che salutiamo. In arte Johnny. Johnny Russo. Evitatelo se lo incontrate per okay. strada. Buona sapienza. Abbiate paura. Mm-hmm. E lui è, cioè, di fatto è stata la terza mente dell'evento. Siamo partiti, cioè l'abbiamo interpellato per la questione grafica, ma poi di fatto l'abbiamo strutturato in tre, sì, in fin sì, dei sì, conti. Sì. Quindi è autore tanto quanto noi della cosa. Ok, e si occupa anche di questo evento di giovedì? No, in questo caso qui stavolta abbiamo iniziato il progetto grafico con lui e poi l'abbiamo lasciato in mano. Esatto. Cioè ci ha dato la traccia, vi ha detto adesso ci ha segnato. Perché sta già lavorando troppo. Sì, sì, sì. Sì. È operato. Perché succede così con i grafici, con i grafici bravi. E lui non è solo grafico, quindi questo rincara la dose. E si occupa di diverse cose. Professionista. Esatto. No, cos'altro fa? Fa l'artista anche lui? Ma allora, io e lui abbiamo dato vita a un'entità un po' astratta che si chiama Pallido Fango, che è nata come progetto fanzine grafico. Ok. E poi è degenerata barra evoluta in questa appunto entità che si occupa anche di organizzazione di eventi, principalmente serate musicali, genere diciamo EDM e poi sì, insomma è una figura anche lui abbastanza poliedrica. Adesso ha finito l'accademia da poco e si è buttato nel mondo del lavoro. Anche no, studia all'ISIA a Faenza. Ah, ISIA, grande. Sì. Ah, dalla padella alla braccia. Esatto. Gli mandiamo un bacio. Mandiamogli un bacio. Ah, per cui era a Faenza stasera o no? No, sarebbe stato presente, ma non c'era posto in macchina. Non c'era posto in macchina. Daniele, cos'altro mi racconti tu invece? Sempre sul progettone. Ma no, raccontaci un po' di te, dai. Visto che io così sono una persona di autocoscienza. Sì, dai. Ma che ti racconto? Sei responsabile del dipartimento? No, non sei responsabile. Sono dentro il dipartimento di comunicazione didattica dell'arte dell'Accademia. Vivo in Accademia da anni. Vivere in Accademia. Ho sempre detto che sono stato studente, ci ho lavorato in segreteria, ora faccio il docente, ho detto che concluderò magari facendo il direttore, il coadiutore farei che il direttore. Direttore, poi presidente. No, vediamo. L'attività del direttore, se la vedi da vicino, la eviti. Esatto, cioè, sì, no, H24. Lo so benissimo. Sì, no, non, sì, però, diciamo, è un ambiente che vivo molto. Mi piace seguire molto i progetti, tant'è che appunto con te parlavamo di riparazioni, di portici, di... E c'è l'imbarazzo della scena. Fra l'altro di portici non abbiamo parlato per niente, perché che invece è un altro, dicevamo, una branchia di riparazioni, che c'è stata la conferenza stampa la settimana scorsa che è durata 4 ore e mezza, per cui noi giornalisti ci siamo addormentati in realtà è stato molto interessante l'idea di, anzi fra l'altro mi piacerebbe anche sentire qualche studente di restauro rispetto alla loro visione di cancellare i graffiti dai portici di Bologna. Quello è un bel tema. Possiamo fare un'altra puntata interamente dedicata, infatti, perché, coinvolgendo anche loro. Esatto. Che in realtà è. Perché anch'io, in effetti, dopo quella conferenza stampa mi sono sentito un po' ambivalente, che a me piacciono tantissimo i graffiti che ci sono in giro per Bologna, anzi, fra l'altro il portico di fronte all'Accademia secondo me è meraviglioso, pieno di poster, di tag, eccetera, eccetera. Sì. Mentre invece l'Accademia, cioè, nel momento in cui qualcuno tocca il muro, immediatamente viene cancellato e rispedito al mittente. Sì. E naturalmente no. Dentro portici, adesso lo diciamo per chi ci ascolta, c'è anche il fatto che la scuola di restauro dell'Accademia restaurerà questo affresco del 4-500 più o meno, che c'è proprio lì di fianco all'Accademia in via Belle Arti, che è stato taggato con uno spray. Sì. Dopodiché è stato coperto con un vetro di plexiglass. E poi è stato taggato ulteriormente sopra il vetro, per cui verrà restaurato sia il plexiglass che l'affresco. Sì, sì. Su questo poi, diciamo, la collega di restauro, la professoressa Camilla Roversi Monaco, abbiamo avuto ospite, diciamo, anche lei. Esatto, lei è in realtà l'unica cosa che da dire sul progetto Portici in sé, che non è proprio sotto riparazione a livello di perché è un'iniziativa che nasce invece dalla correlazione fra l'Accademia di Belle Arti, la Regione Emilia Romagna e il Comune, che si chiama Tre Istituzioni e un Patrimonio. Sono tipo il quarto, quinto anno che viene fatta, e quindi, dicendo appunto, i vari progetti sono due iniziative che viaggiano in parallelo, riparazioni e i portici. Però sì, c'è questa noi di didattica sul discorso che dicevi poco fa del rapporto fra vandalismo, cura del portico e creatività. Ci stiamo proprio ponendo la domanda e quindi la cosa interessante del progetto Portici, che anche in questo caso mette in relazione, quindi intreccia più dipartimenti. Ci sono i ragazzi di restauro che restaurano, ci sono i ragazzi di design grafico e di linguaggi del cinema che si occupano della comunicazione, quindi faranno l'identità visiva del progetto e un documentario, e noi di didattica che ci occupiamo invece di mediazione. Quindi questo è un tema che in questo caso il progetto è più rivolto alle scuole, quindi produrremo un ebook rivolto agli insegnanti che racconterà proprio le varie sfaccettature l'identità dei portici, con una sezione anche proprio legata a restauro, rimozione delle tag, ma appunto riflettere anche su quando l'azione per esempio ha un valore artistico, vedi tutta la street art che ovviamente, infatti, quindi come accademia abbiamo questo ruolo. È interessante perché in effetti anch'io mi sono chiesto qual è il mio punto di vista dopo quella conferenza stampa rispetto al portico. Mi sono chiesto appunto, beh, poi Bologna, cioè, penso da anni è sempre al centro questo dibattito. No, certo. Infatti mi ricordo quando io ero bambino che c'era questo Zomas che faceva ste scritte fantastiche e che qualcuno fotografava, per cui sì. Poi, anche sì, tutta sì, la vicenda della mostra che avevano fatto al certo, museo della città, sì, no, anche blu, anche lì abbiamo avuto Fabiola che ha parlato anche di questo, Fabiola Naldi, che naturalmente è un'esperta di street art, e no, in effetti anche quello è stato un episodio super interessante. Sì, quindi diciamo che il dibattito continua, noi lo portiamo nelle scuole. No, in effetti sì. Cioè, ad Atene, per esempio, chi non vuole il proprio portico graffittato, lo graffita. Cioè, commissiona a uno street artist il riempimento di tutti gli spazi possibili, e dunque per rispetto gli altri non lo colpiscono. Un po' come la parte del portico dove Demetrio Casile ha fatto il suo murale, anche lì nessuno lo tocca perché c'è già abbastanza occupato. Esatto, è già abbastanza occupato. Voi due cosa ne dite di tutta questa? Che cosa ne pensate? Vabbè. Ma secondo me, se ho capito bene qual è il l'affresco, quello della Madonna. Esatto, quello del tabernacolo in fondo a destra. Sì, sì. Io l'ho sempre trovato iconico, perché comunque il fatto che ci fosse la tag sotto il plexiglass che era tenuto a proteggerlo mi è sempre piaciuto moltissimo. Una stratificazione certo. No, in effetti sì, a me ha sempre fatto un po' tristezza, soprattutto l'idea di qualcuno che faccia una tag sopra un affresco del 400. Io non mi sono mai fatto la domanda dal punto di vista etico della questione, l'ho sempre osservato proprio dal punto di vista superficiale per questa sovrapposizione. Esatto, cioè io devo dire che anche un po' da grafico quella tag ci stava pure ci sta pure abbastanza bene, perché poi non è neanche non è una roba invasiva fluorescente. Sì, no, ma poi comunque anche l'affresco originale non è che sia così spaventosamente bello, poi è mantenuto abbastanza male. In un angolo, esatto, cioè alla fine non lo so neanche io. Vedremo dopo il cantiere di restauro. Ah no, in effetti se riescono a tirar fuori quell'affresco non sarebbe male. Quello sarà un po' obiettivo. Che in effetti, voglio dire, a me fa altrettanto male quando passo in Piazza Malpighi, che ci sono tutti questi affreschi che ormai sono neri dallo smog e non c'è alcuna cura assoluta proprio. Sì. Ed è quasi peggio, insomma. Sì. Comunque, tu li osservi solo da da un punto di vista di schermo, di superficie. Sicuramente hanno il loro fascino, comunque c'è questa stratificazione che c'è su un'opera, cioè avere un'opera antica marchiata da un atto contemporaneo cioè è un tempo, un lascito di un tempo che si sofferma su un altro lascito del tempo, quindi magari acquisisce un'aurea di trasmissione. E poi il fatto che fosse protetto dal plexiglass, cioè, sembrava quasi volesse contenere entrambe le cose, cioè, le ospitava entrambe. Sì, sì, sì, ma comunque bene. Sono le 20:56 e ci dobbiamo salutare. È stato fantastico avervi. Ringraziamo Lucrezia Ercoli che appunto curerà questi incontri. Mi raccomando, lunedì prossimo alle 17 in Accademia, nell'Aula Magna dell'Accademia. Daniele Campagnoli che riavremo qui in radio abbastanza presto. E naturalmente Federico Grilli e Jacopo Casamenti, che invece non riavremo mai più. No, scherzo, cioè, tornerete per raccontarci altre avventure, perché vedo che comunque siete super attivi, per cui anzi, certo. Dopo questa prova radio ci è piaciuto. Vi è piaciuta? Fantastico. ottimo. No, tra l'altro ricordatemi che vi do la mia email, così mi mandate le cose da menzionare a Coxo Spaziale d'ora in poi. Molto volentieri, perché in effetti siete così underground che non conoscevo quasi niente di quello che fate. Molto bene, e io naturalmente ero Stefano W. Pasquini, che salutiamo la nostra Mia da Schio su Pie, che speriamo che si riprenda e rivedremo lunedì prossimo, e naturalmente vi lascio con le parole del nostro direttore, che come al solito ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Grazie ancora e ciao a tutti. Il pezzo l'ha scelto Mia, eh? Io da questo pezzo io mi tiro fuori. Every man deserves a good woman, and I want you to be my wife. Time is so much better spent, baby, with a woman just like you in my life. So let me love you, fill me up inside, I wanna hold you, baby. So let me squeeze you. You know that I'll be on my knees for you, baby. I can't let you go. I need you, I want you. Just stay right here with me.